e però la crisi dell'innamoramento e questa segnali in anticipo di qualche anno dell'autonomia dei comportamenti delle donne ebbero un effetto di potere sostanzialmente erotico, sessuale, affettivo sui giovani di allora, specialmente quelli di 24-25 anni, perché erano più preparati degli altri evidentemente, che li portavano secondo me ad una crescita attraverso la crisi. Ecco, questi sono i meccanismi di modificazione, però restava sempre il fatto che non avevano lo stesso grande agibilità del proprio tempo libero dei ragazzi, quindi il pomeriggio del sabato e della domenica avvenivano questi effetti in questi piccoli club che nascevano qua e là per la città e per avere gli incontri, però la sera raramente uscivano le ragazze. Di nuovo uscivano la sera questi strati proletari, per usare un termine poi abusato negli anni 70, diciamo le donne di servizio, le infermiere, quelle che avevano il lavoro, che erano donne lavoratrici, quindi probabilmente finirebbero probabilmente su una certa indipendenza, ma studentesse simili commesse avevano non so perché le commesse non sono più controllate, adesso sarebbe un meccanismo complicato, c'era una lunga fila di fronte, certo alla Rinascente, già la sede, alla sera all'uscita ad aspettare, era quasi una cosa un po' buffa, lungo via Santa Ragione trovavi 80-90 ragazzi in piedi che aspettavano l'uscita di queste ragazze, con questa frequentazione quasi un po' ridicola e anche un po' sorprendente del passare dei pomeriggi interi dentro la Rinascente, dentro la Scanda, senza comprare nulla, ma per lanciare occhiate o comunicare. Queste ragazze lavoravano moltissimo perché facevano gli orari molto pesanti, allora guadagnavano credo 30.000 lire al mese, erano pochissime anche allora 30.000 lire al mese. E quindi c'era questo meccanismo di andare nei luoghi di lavoro dove si poteva comunicare, cioè praticamente dovete entrare negli ospedali, ma cioè, c'era questa modificazione, studentesse, c'era sempre più gente che studiava, c'era la vicina una scuola media unificata, per cui questo determinava i cambiamenti di afflusso di massa dentro la scuola, e si cominciava ad andare di fronte al Cattaneo ad esempio, o ad altri istituti, dico al Cattaneo perché è più vicino alla Ribeia, ma però anche ad altri studi femminili come il liceo Manzoni, che allora era vicino a Piazza Cavour, vicino agli avvenimenti pubblici, a tentare gli approcci per strada all'uscita dalla scuola con tutte le tecniche un po' particolari, soprattutto di vestire. Questa questione è arrivata dallo stile dell'identità, è una cosa che nasce molto lontano, no? Parlano molto di sociologi. Era vestirsi in un modo che attirava evidentemente l'attenzione, come del resto precedentemente, solo che lui lo faceva in strada e lo faceva in strada di fronte nei luoghi dove potevi andare a comunicare con le ragazze. E questa era la prima. Sì, io vorrei raccontare questa storia che è così, per dare un titolo da racconto, intitolerei Dalla bagna di quartiere al popolo della notte, no? E toccherà questa storia che non verrà esaurita in questo primo racconto, in questa prima conversazione. Vorrei trattare delle sale da ballo, dei bar, dei luoghi di aggregazione giovanile e non della Milano alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, fino a parte degli anni 60, quando vengono modificati gli assetti politici, culturali, economici di questa città, no? E quindi tratterà dei bar, delle sale da ballo, dei luoghi di aggregazione giovanile e non, e dei nightclub, cioè terminerà con i nightclub sostanzialmente, sarà qualche puntata più in là. Allora, per fare questo tipo di ragionamento si tratta di definire prima cosa che la Milano degli anni 50 era una città in cui i quartieri avevano ancora una serie di delimitazioni topografiche ambientali molto molto molto precise, molto precise, e che di conseguenza questi quartieri avevano una vita omogenea, come ho già spiegato per un quartiere particolare l'altra volta, cioè che era il Ticinese, Porta Genova, la Casba,

in quella situazione particolare del dopoguerra italiano degli anni 50, le ragazze erano molto controllate e chiuse nella casa, anche quando fossero di estrazione popolare, operaia o comunque artigiana nei quartieri popolari, e quindi soprattutto quelle del quartiere erano intoccabili, abbiamo già detto un'altra volta, e quindi perché erano sorelle di amici, quindi erano, invece quelle degli altri quartieri erano territorio di libera conquista. Allora succedeva che dentro questo percorso il luogo principale dove era possibile conoscere le ragazze erano le sale da ballo, e le sale da ballo avevano una struttura particolare. Le sale da ballo erano prima cosa molto grandi, nella gran parte, erano molto grandi ed erano situate in zone diverse della città ed erano un luogo di incontro di compagnie di quartieri diversi, in competizione tra loro. Ed erano sale da ballo a richiesta, cosa vuol dire sale da ballo a richiesta? Vuol dire che c'erano queste enormi stanze, quasi sempre con orchestra e non con i dischi. Tra l'altro loro c'erano quelli di 78 giri, quelli che servivano in terra si rompevano, ma ovviamente, no? E i fonografi con le puntine di acciaio che scavavano. E quindi c'erano le orchestre. Queste orchestre praticamente erano specializzate nel ballo liscio, sostanzialmente l'orchestra di derivazione professionale degli anni 40. E questo rito del ballo come si estrinsecava? Che in queste sale entravano gli uomini da soli, le donne da sole, e in genere le donne stavano su un lato della sala, nella gran parte, sul lato verticale della sala, e gli uomini stavano dall'altra, e lo spazio tra gli uni e gli altri era di alcune decine di metri, e per cui tu dovevi alzarti dal tuo luogo, attraversare tutta la sala, presentarti a questa ragazza che avevi individuato per l'attrazione fisica, per sembrare in un certo modo, perché era vestita più originalmente, per tutti i motivi che determinano l'attrazione, insomma, sostanzialmente, e chiedevi il ballo. Ballo non è che veniva concesso sempre, quindi la situazione era di grande imbarazzo o di grande, era una magna, nel senso che tu attraversavi tutta la sala, prima quando cominciava appena appena la musica, o addirittura l'intervallo tra i pezzi di musica, tra un pezzo di musica e l'altra, arrivava, dice, permette il ballo, quella diceva di no, dovevi tornare indietro, tu avevi la sensazione che si rendesse conto tutta la sala che tu avevi fatto, avevi fallito il tuo compito. E quindi, come reagiva la compagnia, il singolo ragazzo a questo tipo di situazione? Reagiva dovendo affinare enormemente i propri strumenti di comunicazione e seduzione. Ora, sulle definizioni, per tornare al dialetto, le definizioni erano vastissime, comunque le principali che si prestano ad un ragionamento culturale, ecco, di ambiente, erano, se uno era un dritto, dire un dritto, ora dritto vuol dire uno che aveva capito molto, era scaffato, che aveva una tecnica, una strategia, una tattica, una strategia, si direbbe in termini leninisti, ma ovviamente era una tattica, una strategia, e quindi aveva i tempi giusti e gli sviluppi organici per costruire lentamente un rapporto più profondo e privilegiato col gruppo, che sarebbe prolungato nel tempo, nel senso che saresti tornato in quella sala da ballo e quelle avrebbero privilegiato il rapporto con questo gruppo invece che con altri, no? Non bastava semplicemente l'abilità del ballare, era semplicemente una forma di comunicazione, dopo qua erano molte altre abilità, no? Poi c'è il balordo era un irregolare, era contrapposto al regolare. Ora questa questione del regolare, diceva quello lì è uno regolare, no? Lui era regolare, voleva dire che lui era talmente trasgressivo da essere un re della compagnia e del comportamento, cioè non era un regolare nel senso che era uno studente per bene o un impiegato per bene, era un regolare perché aveva capito come funzionava il mondo e tutte le che è una cosa diversa dal dritto, no? Il dritto è uno che è anche un po' insicuro, perché non è detto che non freghi anche un membro del suo gruppo, no? È un dritto. Invece il regolare è uno che mantiene un massimo equilibrio. Ora questa è la simulazione del linguaggio, che lì è un regolare, voleva dire sì, quello lì è un regolare, ma dentro da alcune forme di opposizione alla morale corrente, no? Invece il balur, a volte era anche simpatico, era uno che non trasgrediva le leggi generali della società, trasgrediva le leggi del gruppo. Allora la fase classica, quando tu eri incazzato per far capire che dovevano essere zinco, sono un balordo, quindi sono irregolare, non so come la finivano. E poi c'erano invece gli isolati, erano visti malissimo, la soggettività isolata, la soggettività doveva esprimersi all'interno del gruppo. Allora l'isolato era un randa, cioè che sta per randaggio. Lui è un randa, ma lascialo fare, lui è un randa, cioè non appartiene a nessun gruppo e quindi è particolarmente sospetto, no? Particolarmente sospetto. Il giovanissimo invece, che apprendeva rapidamente, molto rapidamente, queste leggi del comportamento per inserirsi nel gruppo, siamo tra i 18 e i 22, e quelli 16 che tentavano di inserirsi in questo gruppo, avendo avuto con quelli di 26-27 un gap di 10 anni, no? E quindi che grosso modo avevano 10 anni quando quelli ne avevano 20, e quindi avevano un gap di informazione enorme, e quello lì che si inseriva rapidamente e copiava i comportamenti e metteva la propria originalità era cosiddetto sbarbato di vita, vero sbarbato mai di vita, cioè uno che ha capito come funziona il mondo. Ecco, questa geografia interna del gruppo determinava una serie di dinamiche che portavano ad una trasmissione di culture, cioè, e anche di informazioni spicciole, straordinarie, su, non so, ad esempio come si bacia, perché non è detto, cioè, l'ignoranza sessuale e affettiva in quegli anni era talmente grande. Il corpo della donna, ad esempio, era pressoché sconosciuto, di più, pressoché sconosciuto, non esistevano nemmeno, peraltro, le riviste pornografiche per avere una rozza informazione sull'anatomia femminile, no? E chi aveva avuto rapporti, sostanzialmente nella gran parte, nel grande circuito delle case di tolleranza milanese, e in questi quartieri c'erano sempre particolari casi di tolleranza, trasmetteva alcune informazioni molto rozze con delle specie di lezioni al bar mentre giocavi a carte sulle parti femminili, ma anche su come si bacia sostanzialmente, perché questi la prima volta che baciavano sostanzialmente non facevano granché di più che appoggiare le labbra con la vergogna, poi scoprire che la carta dice, ma questa ha fatto questa cosa, poi andava e dice, ma come mai fanno così? Ma ti sento un pera, ti spiego io, e gli spiegavo tutta la tecnica della trasmissione. E questo lo stesso dicasi per una serie di ragionamenti, di limiti in sconosciuti, quando arrivava ad uscire con una ragazza, alla maggioranza dei ragazzi, dove potevi arrivare nel toccare, nell'esplorare, erano limiti sconosciuti. Evidentemente quelli che avevano 26-27 anni avevano una qualche rozza esperienza, devo dire rozza proprio, su quali erano i limiti evidentemente, e quindi si forma questa cultura di gruppo e scelte nelle cosiddette delle sale da ballo. Ma tornando alle sale da ballo, le sale da ballo non erano tutte quante uguali, ve ne erano due tipo fondamentali, no? Il liscio o l'ambrosiano. Il liscio e l'ambrosiano di per sé sono balli classici, il tango, lo strot, lo slob, il valzer, tutta la tradizione del ballo liscio. E però la differenza tra fare il semplice liscio e l'ambrosiano è, diciamo, una differenza tra comportamento popolare e comportamento borghese. Allora diciamo che il liscio, ad esempio, si poteva fare proprio sopra il palazzo, c'era questo posto molto bello dove si andava a ballare, si andava all'ascensore, si saliva, c'era questa terrazza, questa casa qui dominava il piazzato, poi tutti i tetti, era un terrazzo giardino con i camerieri vestiti in un certo modo, con i tavoli attrezzati in un certo modo, ed era frequentata principalmente da figlie della piccola e media borghesia milanese, si vestivano in un certo modo, lì liscio era assolutamente sicuro, i balli rapidi, cioè i balli sono del loro charleston, venivano fatti rallentare, molto scomposti, e spesso erano accompagnati anche dai genitori, queste ragazze che andavano in questo tipo di locale, e lì spesso il ballo liscio, secondo alcune tradizioni stereotipe del ballo liscio, devo dire. Erano, è vero, più graziose queste ragazze perché più nutrite, insomma, nel senso che venivano da una classe che aveva avuto più proteine, più condizioni, e aveva più mezzi per vestirsi. Ecco, questo ballo liscio, invece nelle sale popolari c'è quello che si chiama il ballo ambrosiano, che si differenzia dal liscio, essi, cioè o del tango, del valzer, dello slow e simile, in realtà il ballo diventa figurato, perché anche in quel caso il problema era della comunicazione, quindi fare le figure, quello liscio, molto fantasiose, diventava anche, non c'era bisogno di comunicazione, perché era una classe omogenea che comunicava quindi internamente per altri canali che non fossero quelli dell'esibizione, sostanzialmente. E poi c'erano invece delle sale miste, Meridiana e la Fiorentina, Meridiana e la Fiorentina e la Biera Italia, e queste erano enormi sale popolari dove si alternavano forme di ballo liscia, blues, slow, non con grande importanza. Si alternavano ai balli moderni emergenti, boogie woogie, rock and roll prima e successivamente boogie woogie del Charleston prima e successivamente il rock and roll. Ma allora era che prima tu facevi rock and roll e poi dopo passavi al liscio, ma il liscio a quel punto era la funzione di stringere il rapporto con la ragazza con una serie di prove che facevi, perché non c'era bisogno di fare esibizione, cioè il liscio era lentissimo, luce bassissime, quindi stringere questa ragazza e verificavi la capacità che fosse del suo corpo, le situazioni dell'uomo sono diverse da quelle della donna, per cui la ragazza poteva capire immediatamente se questa accettava questa situazione, senza grandi riscontri successivi, come ho detto prima, al massimo con un accentuato e diffuso dolore a linguine o alla pancia quando uscivi tu maschio dalla sala del ballo, perché irrisolto evidentemente nei desideri. Però già questo fatto di aver scoperto o di aver verificato quando andava bene che l'abbraccio nella sostanzialmente nell'oscurità con qualche forse tentativo di bacio sulle guance o sul collo determina che questa voleva dire che potevi proseguire questo rapporto, che sarebbe durato forse anche mesi prima di arrivare ad uscire da solo, andare al cinema evidentemente, no? Questa era, quindi aveva una funzione veramente diversa, questa, una geografia dei comportamenti. Il ma di questa situazione era, l'ho pensato una saga a ballo detta il polverone, no? Il polverone era il ciclo dei ferrovieri che c'è sotto la galleria della stazione centrale che collega la stazione e che dove ci sono questi gas in automobili adesso, questo tunnel sotto la ferrovia della stazione centrale. Ed era il ciclo dei ferrovieri, era un posto enorme, quando passavano i treni lasciavano cadere dei calcinacci che andavano sulla pista e ballando, si lasciava un polverone. Il polverone era frequentato da un territorio, a nostro giudizio, a giudizio dei gruppi giovanili di quegli anni, da un territorio di conquista, che è anche un po' volgare, ma dà la sensazione della situazione di classe, di comportamenti collettivi. Cioè il polverone si pagava 200 lezioni, era proprio il posto di più infimo livello. Ed era realizzato, se sarà da ballo, proprio nella mensa dei ferrovieri. Tanto è vero che le sale erano due, nella mensa dei ferrovieri aveva la cucina in mezzo, con degli enormi pentoloni, enormi cucine, mangiavano centinaia di ferrovieri, e poi vale per non andare all'altra per ballare attraversare queste cucine con un odore incredibile, tant'è no, che tu compravi perché rimanevi un po' intriso da questi odori, compravi questi profumi che tenevi in tasca perché ogni tanto ti sentivi e potevi buttarli ogni tanto addosso, ed erano frequentati commesse di livello di estrazione molto molto proletaria e per motivi che onestamente non so spiegarmi ancora oggi, infermiere. Questa teoria dell'infermiere era nata nella zona del centro perché ai giardini quell'orario lunghissimo avevano dei contatti di lavoro pessimi le donne. E quindi nell'intervallo, in quell'ora che avevano magari l'intervallo che si andava dentro questi giardini, tu vestiti ancora di bianco da infermiere. E forse per l'oppressione del lavoro, fare turni notturni, giornate, evidentemente potrei dire che era una cerca di affetto sostanzialmente, andavano in questi giorni, quindi c'era al pomeriggio, la pizzeria di questa stazione, c'era tutta la città in caccia di queste infermiere, che si trasferivano anche nelle altre sale da ballo, e però lì era un posto di enorme socializzazione il polverone, proprio quando eri proprio la disperazione che non avevi risolto nulla, finivi al polverone, dove anche al polverone in realtà non c'erano grandi libertà, diciamo, sul piano sessuale, quindi, poi da lì si saliva sopra. Si saliva dove c'era la ferrovia proprio sostanzialmente, quindi avevano strade ben fatte, dove avevi la possibilità di limonare e a volte in maniera oscura, nel senso che limonare una volta e poi non vedevi più nessuno, non la vedevi più probabilmente per mesi, e questo era un po' questa situazione di Sarabello si è prolungata per anni con una variabile fondamentale, le sale di rottura pura con la tradizione musicale italiana e anche con i comportamenti del vestire, del comunicare e del muoversi dentro l'occupazione del tempo libero con questo chiodo fisso del comunicare con le donne. La Carrazza Olio, nel Trianuno, c'è queste sale della piccola borghesia, evidentemente non c'era bisogno di comunicazione perché andavano già a scuola, avevano compagni di classe, avevano e quindi nacquono queste sale, diciamo, che vengono definite per motivi misteriosi esistenzialisti, no? E le cui tre più famose erano la Taverna Messicana, la Retusa e Santa Tecla. Taverna Messicana, questi italiani musicali, che avevano però dei nomi americani complicatissimi. Per tutti valga che a Santa Tecla suonavano i Rocky Mountain Old Time Stompers, no? Bella storia, credo, erano delle vecchie montagne rocciose, qualcosa del genere. Original Lambro Jazz Band e la Milan College Jazz Society, no? Tant'è che questi musicisti che suonavano allora, che sai, sono diventati poi tutti famosissimi jazzisti italiani. La taverna messicana suonavano quelli che poi sono diventati nella storia del jazz italiano i senatori, che diceva l'operaio, che faceva il commesso, grazie a... e poi la domenica suonavano con questa passione enorme per la musica americana, comprando questi dischi e riproducevano pressoché esattamente le musiche che avevano sentito nei dischi. La differenza tra le altre sale era fondamentalmente di questo tipo, in via Santa Tecla, Honky Tonky, diciamo, Santa Tecla Honky Tonky, sono le tradizioni di jazz di New Orleans, era di, quasi esclusivamente di jazz New Orleans, tromba, contrabbasso, cioè New Orleans, e quindi lì la musica principale era un boogie woogie di tradizione un po' Dixieland, un Charleston fatto perfettamente, non so, a ragtime, la Jerry Roll Morton sul pianoforte, il bebop ha fatto abbastanza male, cioè, perché non avevano un tipo di struttura musicale diversa. E invece alla taverna messicana c'era un jazz più colto, non a caso da lì sono usciti i Puppini, la Dambrini, la Zecchi, basso, simili, i quali tentavano di avvicinarsi a quello che può essere il bebop, sostanzialmente il bebop è una musica più fredda, più di i paio più in fila che partono insieme e possono andare avanti a una quarta d'ora inventando continuamente passi che in realtà sono conosciuti a memoria da tutte le coppie, e lo spettacolo è proprio di perfetta simmetria, e se questo